Cari amiche, cari amici, bentrovati, bentrovate. Sono Mari D. Ritorniamo dopo qualche tempo, dopo qualche settimana di vacanza. Ci eravamo lasciati quasi a fine luglio e riprendiamo con somma gioia e veramente tanta, tanta volontà la sesta edizione di Brussellando. Abbiamo cominciato il 28 settembre del 2007, questo progetto si è rinnovato nel tempo e quindi sono veramente, veramente contenta questa sera di poter non solo riaprire la sesta edizione, ma di confermare quello che poi è il team di Brussellando. Saluto Dani M in regia. Buonasera a tutti. Buonasera. Saluto la nostra Fiordaliso e saluto il nostro Georges Laurent. Eccoci. Ah. Eccoci ritornati in auge dopo 2 mesi di meritato, consentitecelo, meritato Direi riposo. proprio di sì, era necessario perché poi lo scorso anno è stato un anno molto impegnativo, però vi assicuro che in questi 2 mesi che abbiamo lavorato sono tante le sorprese che speriamo vi stupiranno, vi colpiranno durante quest'anno. Speriamo anche di risolvere questo problema che ormai ci affligge da 2 anni, che è quello dei tappeti e delle musichette, ma come dicevamo, ci stiamo impegnando anche su quel fronte, quindi speriamo di poter finalmente ritornare a quelli che sono gli standard di Brussellando. Brussellando fondamentalmente vedrete in queste settimane manterrà la propria struttura, però ci sono delle tematiche che ritorneranno in maniera piuttosto regolare. Si conferma la penna del diplomatico, che vedrà il nostro primo ospite il 23 ottobre. Nella persona di Fabrizio Petri, qualcuno l'ha definito come un diplomatico mite, ma dallo spirito intellettuale estremamente elevato. E questo potrete veramente ascoltarlo voi stessi il prossimo 23. Fabrizio è un grande amante dell'India. Io sono reduce, insomma, sono anch'io stata in India durante queste vacanze, quindi insomma sono tante le cose che mi accomunano a Fabrizio. La settimana prossima, invece, essendo una radio multiculturale, essendo una radio aperta a quelle che sono poi le anime, le atmosfere di questa città, affronteremo il tema del razzismo, visto da chi vive a Bruxelles avendo il colore della pelle diverso. E purtroppo questo appare essere ancora uno degli elementi discriminanti e discriminatori della nostra società. E ringrazio Gerard Adam che si conferma essere uno dei sostenitori più veramente attenti a quelle che sono le esigenze letterarie non italiane di Brussellando. E concluderemo il mese di ottobre, quindi questo primo mese di Brussellando, con un appuntamento veramente speciale, tant'è che lo abbiamo battezzato Brussellando Special. Saremo a una settimana da quelle che sono le elezioni più attese dell'anno, se ne parla ormai da tanto tempo. Dedicheremo quindi, consacreremo una puntata di Brussellando a questo evento che di culturale probabilmente non ha tantissimo, ma che invece riesce poi ad influenzare quelle che sono poi altre tipi di risorse messe a disposizione qui a Bruxelles. Avrete capito tutti, sto parlando delle prossime elezioni americane. Cercheremo di capire che cosa bolle in pentola e quali sono le sfide a cui l'America stessa è chiamata e cui, come sappiamo, seguiranno poi altre scelte, quelle europee e quelle di tutti gli altri stati. Ne parleremo con 2 ospiti veramente di grosso calibro. Ne parleremo con Ian Lesser, che è il direttore esecutivo del Fondo Marshall qui a Bruxelles, e ne parleremo con un diplomatico che è stato tanti anni a Washington, Roberto Toscano, che ritorna graditissimo, e vi posso assicurare che l'apporto dell'ambasciatore Toscano anche durante il primo incontro che abbiamo avuto è stato straordinario. Quindi questo è soltanto per darvi gli appuntamenti classici, quelli più attesi. Però vi saranno anche 2 altre sorprese. Carolina Morace è ospite alla Monte dei Paschi questa sera e ha partecipato ad un evento sulla presentazione, un evento ahimè triste, che è stato quello delle ASL, ma ha avuto il tempo, ha dedicato a Brussellando 10 minuti del suo tempo, quindi ci sarà uno spezzone disponibile sul nostro blog tra qualche tempo, e invece lo spezzone dell'intervista sarà riproposto martedì prossimo. E visto che parliamo di agenda culturale, perché tutto sommato Brussellando mantiene il suo amore per la diffusione di eventi soprattutto di matrice italiana, invece Bruxellando giovedì 11 ottobre incontra i registi più famosi per il momento d'Italia, i fratelli Taviani. Li incontra a Gand e non a Bruxelles, quindi gandiamo, forse potrebbe essere l'espressione gandiamo o gandai da sola l'espressione migliore, però no, ganda con Dani M. Ganda in compagnia, e l'intervista sarà riproposta ugualmente martedì prossimo, quindi martedì 16. Veramente vi aspettiamo numerosi, perché insomma questi sono grandi nomi che contribuiscono a migliorare quello che è il nostro palinsesto per quest'anno. E quindi questo è un evento veramente straordinario. Insomma, i fratelli Taviani poi saranno al Bosar proprio giovedì sera alle ore 20, e sarà possibile quindi poter assistere alla proiezione del film Cesare deve morire, Cesare must die in inglese. E per quanti volessero poi anche approcciarsi ai due registi stessi, ci sarà anche un incontro col pubblico a fine serata, quindi insomma per quanti fossero curiosi, crediamo che questo sia l'evento sicuramente più importante del palinsesto di Bruxellando per questi giorni. Un palinsesto che poi si arricchirà anche di altri nuovi personaggi mano a mano. Sì. Qui in regia stiamo nella redazione Bruxellando, ci sono idee che stanno vagando, ovviamente durante l'estate sono prodotte e adesso lentamente cominceremo, ma progressivamente, a concretizzarle. E gira la voce che forse ci sarà una nuova sigla. Questo dipende dall'ispirazione di qualcuno. L'ho visto su Wikileaks. Ah, Wikileaks è già arrivato da quelle parti? Sì. Wikileaks dice che Bruxellando avrà una nuova sigla, probabilmente sì, ma insieme alla sigla lo dice Assange in persona, quindi aia, ma lo dice direttamente dal consolato, dall'ambasciata? Sì, dall'ambasciata del Venezuela. No, vabbè, in realtà tante novità, io sono Dani M, il regista, sono contento di ritrovarvi. Due mesi e mezzo di pausa sono stati, diciamo, proficui, abbiamo partorito nuove idee e piano piano le metteremo all'opera, vero Giorgio? E come no, sempre pronti, ancora qui, ormai iniziamo il sesto anno di trasmissione. Eh sì, spegniamo sei candeline. Sì. Ai ai ai. Bruxellando va. Siamo in prima elementare ormai, andiamo, quindi insomma andiamo, non abbiamo a più scuola. Non abbiamo più scuse, insomma, stiamo gradualmente, insomma, affinando anche i nostri metodi di ricerca. E ha parlato di questo mese di ottobre e non vi ho ancora introdotto il primo ospite di Bruxellando. Pensate, io avevo letto di lui mentre ero in vacanza in Italia. Mi trovavo in Italia quel fine settimana e avevo visto un articolo, credo su Repubblica, su Di Donna, la rivista che è allegata al Sabato, e avevo letto di questo scrittore. E già il titolo mi aveva vagamente incuriosito, perché il titolo lascia tante interpretazioni. Da amore non esistono peccati. E allora lì, insomma, uno si chiede, ma che cosa intende per d'amore non esistono peccati? Ed era divertente poi una controfrase che c'è proprio nella prima di copertina, dove dice: no, in realtà gli unici peccati sono quelli che si fanno contro l'amore. Quindi dico, però, dico, questo romanzo inizia proprio, insomma, mi aveva incuriosito molto. Quindi immaginate la gioia e la sorpresa allo stesso tempo quando qualche settimana più tardi, siamo verso il 20-22 di settembre, il nostro caro amico Simone Marchi, che saluto, il responsabile della casa editrice Barbera, mi invia un'email presentando, credo non l'avesse inviata solo a Bruxellando, ma comunque voglio dire, ricevo Simone Marchi la scheda descrittiva di Roberto Pazzi e ovviamente la curiosità, che non è solo donna ma sicuramente in quel momento era molto viva, mi ha spinto a chiedere a Simone la possibilità di poter intervistare Roberto Pazzi. E Roberto è stato praticamente straordinario, l'ho poi sentito al telefono, e vedrete quando ascolterete la sua voce, ha una voce magnetica, ha una voce effettivamente davvero che non può non passare inosservata, e Roberto vi racconterà di questo suo romanzo. Pensate, è un autore molto prolifico, io riconosco, non avevo letto nulla di Roberto, e questo è il suo 18° romanzo. Quindi insomma cioè, stai è in linea con un grande della fantascienza, Asimov. Beh, insomma, lui scriveva tutto. Probabilmente l'elemento in comune con Asimov potrebbe essere di sicuro questa fantasia che riesce sempre a rinnovarsi, a scrivere in una maniera straordinaria. Roberto è nato alla Spezia, però ormai vive già da tanti anni a Ferrara. Immaginate, lui si è laureato in estetica con Luciano Anceschi a Bologna e ha esordito in poesia con una trilogia di versi presentata da Vittorio Sereni, che lui cita più spesso in molte delle sue interviste. Tante sue poesie sono apparse su varie riviste letterarie, fra i quali Nuovi Argomenti e l'Almanacco dello Specchio. D'amore non esistono peccati, come dicevamo, è il suo 18° romanzo. Io voglio ascoltare direttamente da Roberto quelle che sono le motivazioni anche per un libro di questo genere, perché una delle difficoltà più grosse che ho avuto, immaginate, insomma, una lettrice avvezza come la sottoscritta non è riuscita propriamente a classificare il suo romanzo in un genere, in un genere specifico. E quindi, insomma, questa peculiarità mi spinge veramente a saperne di più, perché lui ha fatto una carrellata di tanti personaggi letterari, non solo personaggi letterari ma anche storici, e quindi c'è un po' un incontro di personaggi reali e irreali che a un certo punto dialogano tra di loro, il cui tre di unione è un certo Mercuzio, che è il protagonista di questo romanzo, che si trova casualmente, si sveglia, ecco, direi meglio così, si sveglia casualmente in questo albergo del Mont Repos, che probabilmente in Francia, ma non si sa esattamente dov'è, e incontra Romeo e Giulietta, Paolo e Francesca, Abelardo e Eloisa, voglio dire, insomma, cioè, ci sono personaggi letterari che tanto hanno animato la nostra cultura letteraria. Roberto, buonasera. Buonasera. Benvenuto a Brussellando, Radio Alma. Ben trovata. Io stavo anticipando ai nostri amici ascoltatori della lettura del tuo libro, insomma, delle mie prime impressioni, e riflettevo a voce alta che c'è una grossa peculiarità che ha questo tuo romanzo, D'amore non esistono peccati, e che difficilmente lo si riesce a catalogare sotto un genere preciso, il che per me però non è un problema, perché anzi questo poi apre la fantasia verso, insomma, poi tu mi confermerai, verso tante interpretazioni. Ci puoi spiegare il perché, però, intanto, di quest'opera così, diciamo, onirica, se vuoi? Perché abbiamo tutti bisogno di sognare, altrimenti affoghiamo in una realtà che è deludente ogni giorno. Non parliamo poi di un momento storico come quello che stiamo vivendo, fra crisi economica, mancanza di valori, abbassamento di tensione morale, mancanza di utopie. La letteratura, secondo me, ha un'altissima funzione, quella di ricompensare della viltà, della miseria, della realtà, attraverso uno sguardo alto, andando a rivisitare anche alcune delle figure dell'immaginario più poetiche dell'umanità. Ci riesci benissimo. Romeo, Paolo e Francesca, Eloisa Abelardo, Oscar Wilde, Proust, tutti i personaggi che ho messo insieme in questo grande albergo immaginario che si chiama Mont Repos, dove uno smarrito personaggio si trova a risvegliarsi e dice: ma io starò sognando, mi sveglierò. E correggimi, allora, io ho dato anche un'interpretazione a questo tuo romanzo, beh, magari poi la potrei trovare un po' forzata, però nel leggerlo pensavo anche a Doppio Sogno, in cui c'è questo... Certamente, ottima associazione di Schnitzler. Esatto, pensa... Uno dei miei maestri, Arthur Schnitzler. Ah, vedi, quindi tutto sommato, visto tra le righe qualcosa l'avevo individuato, certo, perché certo. C'è un elemento, soprattutto, che mi sembra essere poi il fil rouge di tutto il romanzo, che è il desiderio. Certo, perché diciamo che finché si desidera, si è vivi. Quando non si ha più appetiti, quando non si ha più... libido, desideri, fame di qualcosa, parliamo anche della fame del piacere, perché è così onesto essere attaccati anche ai piaceri sensibili della carne, della giovinezza, della bellezza e comunque del bisogno di amore che è eterno e non ha età, che è di qualsiasi età. Ecco, io ho cercato di mettere nel mio romanzo questo desiderio di cui tu hai parlato come una pulsione continua del protagonista, il protagonista che non sa, non si ricorda più chi è, a un certo punto mi incontra, come ti dicevo, nel parco di quell'albergo immaginario, Giulietta e Romeo, che lo chiamano Mercuzio. Mercuzio era il famoso amico di Romeo, certo, no? Nell'opera di Shakespeare, e dice: ma sarò Mercuzio, non mi ricordo più chi sono, sto al gioco, magari faccio finta di esserlo. E Mercuzio è la persona che ogni notte sogna in quell'albergo una creatura molto sensuale, erotica, con cui ha un rapporto carnale, ma che non riesce assolutamente a identificare chi sia, senza volto. È l'oscuro oggetto del desiderio che tiene in viva la voglia di risvegliarsi di Mercuzio, perché forse è il fil rouge, è il filo d'Arianna per uscire dal sogno, questa creatura di carne. Infatti, come tu hai letto nel romanzo, sai che poi incontrerà, darà, sì, un volto a questa creatura che lui sogna. Ma questo non lo svegliamo, perché verrà poi verso la fine, ma prima di arrivare alla fine, poi insomma, sono tanti gli incontri. A metà, ecco, vabbè, dipende dai punti di... sì, più o meno verso... Erika, la cameriera. Esattamente, sì. Però comunque, allora, facciamo un passo indietro. C'è un elemento, sì, che però mi ha incuriosito di Mercuzio. Mercuzio, sì, va in giro con un libro, no? Che pare essere il libro... Il manuale sul niente. Il manuale sul niente. Però allo stesso tempo risulta essere un po' come il depositario dei sentimenti, della psiche umana, proprio attraverso l'amore, le passioni, le fragilità e anche le paure degli uomini e delle donne che incontra in questo luogo così speciale come il Bon Repos. Simbolicamente, che cosa volevi rappresentare allora con questo libro vuoto, bianco, che incuriosisce poi gli ospiti, per esempio penso, certo, a Wilde? Allora, tutto parte, cara amica mia, tutto parte da una frase che di Shakespeare nella Giulietta e Romeo: taci Mercuzio, tu parli di niente, dice Romeo, per arginare la frana di parole, la tiritera lunghissima, immaginifica che fa Mercuzio quando racconta della regina Mab della notte, che era simile a un guscio di noce, e comincia una rutilante serie di metafore per descrivere in fondo una creatura che non esiste, no? Allora, questo niente da cui parte Shakespeare, io lo raccolgo come un tutto, perché quel niente sublime di quel pezzo di Giulietta e Romeo è in realtà fortissimo, perché è il tutto della letteratura, è la capacità di inventare mondi che non ci sono. E allora mi sono riagganciato, per quel niente che è il tutto, a una frase scritta da Oscar Wilde in un qualche suo libro che mi aveva colpito da morire, che dice: il niente è un paese di persone meravigliose, le sole persone reali sono le persone che non sono mai esistite. Che cosa voleva dire quel genio di Oscar Wilde con questa frase paradossale: le sole persone reali sono le persone che non sono mai esistite? Che talvolta noi ci siamo attaccati ai personaggi che leggevamo, non so, in Dostoevsky, in Bulgakov, nella Yorsenar, in Proust, in Tolstoi, più che alle persone quasi che avevamo in casa. Chi almeno una volta nella vita ha provato la difficoltà di spegnere la luce la sera perché si stava attaccando troppo a quello che stava leggendo in quel romanzo, quei personaggi, quasi che fosse più in compagnia di loro che non in compagnia delle persone che stavano in casa, può capire cosa voglio dire. Che assolutamente. Poi succede che certi personaggi, tipo Anna Karenina, oppure Madame Bovary, ci fanno compagnia tutta la vita, diventano persone che non sono mai esistite, ma sono le sole persone reali per molti di noi, o perlomeno hanno un tasso di realtà con la R grande in cui noi ci riconosciamo come uno specchio meraviglioso. Assolutamente, tra l'altro, per riagganciarmi a quello che stava dicendo proprio poc'anzi, c'è questo elemento che ritorna poi in tutto il racconto, che è il rapporto per l'appunto tra sogno e realtà. E un altro elemento che pure mi ha stupito di Mercuzio è questa sua capacità di trovarsi di fronte a questi personaggi, di saper ascoltare e poi di saperne, tutto sommato, trarne anche una conclusione o comunque una sorta di raccomandazione. Sbaglio oppure sono andata troppo lontano? No, certo. Diciamo che tutti quei personaggi gli danno dei consigli, gli mettono degli avvisi, Insomma, noi tutta la vita dialoghiamo con i personaggi preferiti. ad esempio io avevo una passione per i troiani quando leggevo l'Iliade da piccolo, no? Avevo una simpatia straordinaria per Ettore. Ecco, poi non so, quando ho letto Dostoevskij avevo una simpatia straordinaria per il principe Mishkin nell'Idiota, oppure in Barclays, in Cent'anni di solitudine, mi sembrava un mio amico il colonnello Aureliano Buendia. Quando ho letto Oscar Wilde, Dorian Gray mi faceva rabbia, però dovevo farci sempre i conti. Cioè, sono tutti personaggi con cui noi continuiamo a dialogare nell'esistenza, si convive con certi fantasmi. Ecco, io ho messo alcuni nel mio romanzo, ho messo quelli che avevo amato di più quando leggevo, insomma, ti ripeto, Giulietta e Romeo, Paolo e Francesca, come si chiama? Eloisa e Abelardo. Grandi amanti. Oscar Wilde, e Bose. Bosi, Proust il suo autista, la Yersenar la sua traduttrice, Cavafis, Leopardi, Michael Stetter, sono alcuni personaggi che mi hanno, le cui opere, perché lì ho messo un po' i padri e i figli, cioè alcuni come Proust sono i padri, ma poi ci sono le creature create da Proust, che sono quelle della Recherche. Ho cercato di dare una seconda possibilità. Ecco, mi ha fatto molto piacere una recensione di Repubblica, la Repubblica delle Donne, che ha detto che io davo una seconda possibilità a tutti questi personaggi, come se potessero essere messi in scena ancora in quella parte che non è stata mai scritta di loro. Quando noi chiudiamo un libro che abbiamo amato, ci viene quasi rabbia che sia finito, no? Assolutamente, tra l'altro c'è, vorremmo che finisse, noi ho fatto un po' cominciare oltre i miei personaggi che avevo amato. C'è un passaggio molto bello su Giulietta, che non me ne voglia Shakespeare, non me ne, ce ne voglia Shakespeare, e su questi tre famosi giorni di sonno. Eh sì, come hai acutamente letto, io ho cercato di interrogarmi cosa ha sognato Giulietta quelle tre notti che ha dormito facendosi come fosse morta dentro la cripta della famiglia dei Capuletti. Era un sonno, non era la morte. E Mercutio glielo chiede, dice, perché ovviamente Shakespeare non ce l'ha mai raccontato. E lei, per bocca mia, racconta, ah, non me ne parlare, cosa ho sognato. Dei figli pestiferi, sempre pieni di problemi, con malattie tremende, la malattia della cecità che mi ha piano piano nella vecchiaia contristato, i litigi con mio marito che mi faceva le corna, preoccupazioni economiche a non finire, scontri con le famiglie di origine. Ho sognato il matrimonio, la mia vita come sarebbe stata in un lungo decennio di malvita matrimoniale, sarebbe stata la fine di quel sogno assoluto che è stata quella notte unica e quel giorno unico d'amore che Shakespeare ci ha dipinto. E poi c'è anche un altro passaggio molto carino invece della coppia Abelardo e Luisa. Ah sì. Soprattutto di quando si trovano a colazione a mangiare queste poche cose frugali e dell'incontro poi nuovamente con Mercuzio. E allora Abelardo gli chiede: "Ma che cosa stai leggendo?" E Mercuzio è un po' reticente nel mostrare questo suo libro del niente. Sì, il manuale sul niente. Il manuale sul niente, esatto. E, per ritornare quindi a Mercuzio, che poi è un po' il protagonista principale, non mi sembra però che le assomigli tanto. Mercuzio sembra sempre così indeciso, così come se fosse sempre in attesa di... pieno di dubbi. Esatto, sì, molto dubbioso, molto... molto umano. Dice che non assomiglia a me? Sì, nel modo in cui insomma stiamo chiacchierando questa sera mi sembra. Beh, sì, io sono un'altra persona rispetto alla mia creatura. Probabilmente noi siamo tanti io dentro di noi. Io ho messo in scena uno dei miei io in quel Mercuzio lì. Ovviamente la creatura che è in parte me stesso, in parte non lo è, che si chiama Mercuzio, ha una parte di me che è l'amore per i fantasmi, è troppo attaccato ai fantasmi di carta, no? Uh-huh. Il problema di quel Mercuzio è che deve scegliere fra la carta e la carne, no? Uh-huh. Perché è talmente attaccato a quei personaggi meravigliosi che quasi quasi si dimentica che si deve svegliare per tornare alla vita della carne, sta sognando ma si sveglierà, però non riesce più, si affeziona troppo ai sogni che sta vivendo, quasi quasi non vuole più tornare a casa. Ecco perché gli viene mandato una specie di messo salvifico, che è questa donna bellissima, esatto, che lo fa innamorare, questa cameriera, questa Erika. Che appare in sogno più volte. Appare in sogno senza volto prima, poi esatto, appare nella realtà. E poi sì, però questo magari lo... cerchiamo di... diciamo, se vediamo un po'. Esatto, perché... Diciamo poi tutta la faccenda di Erika, diciamo solo che compare questa qui che gli dice... pronto, sei pronto, devi andare via, devi venire via con me perché tu sei di carne, non di carta. E mi tolga una curiosità, come diciamo tra i personaggi poi non letterari, diciamo tra i personaggi non fittizi, ci sono però Napoleone e Giuseppina. E Giuseppina, sì, questi sono storici. E questi sono ovviamente personaggi storici. Come mai ha deciso di inserire... Capisco la grandezza dell'imperatore e capisco anche questa storia d'amore, penso che Giuseppina fosse l'unica che potesse essere in grado di far tremare Napoleone, però come mai ha deciso di inserire in questo contesto molto letterario un personaggio così, diciamo, amato e odiato come Napoleone? Ecco, perché ho voluto mettere anche non solo i miti della letteratura, ma anche i miti della storia, cioè nella storia ci sono alcune figure mitiche, Alessandro, Giulio Cesare, Carlo Magno, Napoleone, che hanno un valore luminoso, un valore favoloso, un valore evocativo, leggendario quasi, che supera la realtà politica che hanno vissuto. Nel mio immaginario, forse perché era una mia lettura preferenziale ad adolescente, io ho amato molto il Napoleone con gli occhi di Stendhal. Stendhal nel Rosso e il Nero fa capire che il protagonista, Julien, è innamorato dell'eroismo di Napoleone, della figura solenne, statuaria, gigantesca di Napoleone, quando finito poi relegato nell'isola di Sant'Elena. Ecco, il Napoleone chiuso, prigioniero nell'isola di Sant'Elena, con una grandezza che viene, come dire, coartata e imprigionata, evoca, ecco, e se non fosse andato a Sant'Elena, se avesse avuto una chance in più, ecco ancora il motivo di quella recensione di Repubblica, cioè ho dato un'altra possibilità a Napoleone. In fondo, quando ho letto di Napoleone a Sant'Elena, nel memoriale di Sant'Elena, è stato a Sant'Elena dal 1815 alla morte nel 1821, sì. Napoleone non può non diventare umanamente, cristianamente, pensiamo al 5 maggio di Manzoni, no? Sì. E fu siccome immobile, già questo. E io ho cercato di dare una chance a Napoleone, che la nave sbagli la rotta e non arrivi a Sant'Elena, ma arriva lì al Mont Repos, dove c'è ad aspettarlo la sua donna, la donna che aveva amato di più. Effettivamente, dalle lettere fra Napoleone e Giuseppina si vede che era una passione sensuale straordinaria. Lei era più vecchia di lui, ma ci sapeva molto fare con Napoleone. Assolutamente. Siccome siamo in Belgio, volevo allora fare anche un'altra domanda su quella che è probabilmente una delle autrici più amate dal mondo francofono, che è Marguerite Yourcenar. Esatto. Infatti è una delle autrici che adoro, è nata e si chiamava De Crayencourt, esatto, nel castello del Belgio. Esatto, esattamente. Non esiste più. No, anche perché insomma poi lei ha vissuto... sì, e poi lei ha vissuto molto in America, poi dopo è ritornata, ha sempre avuto un rapporto poco, diciamo, un po' conflittuale con Bruxelles. Il Belgio non aveva un gran rapporto, esatto, con la famiglia di origine, non aveva un rapporto meraviglioso col padre, Michel. Esatto. Ma poi la mamma è morta, che lei era appena nata. Quindi. Sì, quindi, e c'è questo aspetto quindi che ritorna, e quindi magari cerchiamo anche di dare un ulteriore collegamento al titolo, quindi su questo amore dove non esistono peccati, perché sì, lei riesce, diciamo, a descrivere l'amore anche gli amori diversi, chiamiamoli così. Uno dello stesso sesso, che era Grace Fricke, è stato un amore straordinario, era la sua traduttrice americana, in inglese, è stato un amore di 40 anni, sono state insieme Marguerite e Grace 40 anni. 20 anni stava bene Grace, poi negli ultimi 20 anni si è ammalata di cancro, sì, ed è stato un calvario. Io ho letto tutti gli archivi del Nord, le biografie su di lei, le interviste ad occhi aperti, ho letto tutto della Yourcenar. È un'autrice che adoro, che mi ha fatto sentire un'anima sorella. Perché? Perché la Yourcenar vive come me una profonda ammirazione e affinità per il mondo cristiano, esatto, per il mondo del paganesimo, per sì, il mondo classico, latino e greco. Io non ho una profonda simpatia per la civiltà cattolica cristiana, non ritengo che sia l'apice della civiltà, ritengo che il pensiero greco, il pensiero della classicità abbia avuto delle punte altissime per certi aspetti. Ciò che è bello degli inizi del cristianesimo è perché è stato copiato da là. Beh, il cristianesimo rappresenta un po' la sintesi di tutta una serie di culture, sì, da quella persiana, sì, passando per quella... Per saccheggiato tanto da Platone, sì, se pensi a Sant'Agostino senza Platone non avrebbe senso. Non avrebbe senso, assolutamente, sono perfettamente d'accordo. Siamo, ahimè, il tempo in radio è veramente tiranno e corre veramente via velocemente, e cedo il microfono al mio radiocollega Georges, che finora è stato in ascolto della nostra conversazione. No, in ascolto estasiato, devo dire, perché è bellissimo dialogo fra voi due, incredibile, veramente. Arioso, se mi ha consentito il termine, arioso, dove si è volato. A me piace molto volare, come credo a tutti piaccia volare. E allora però, mentre vi ascoltavo, ritornavo sempre, ecco, alla forza motrice che è il desiderio, mi viene in mente il romanticismo, il movimento dello Sturm und Drang, quindi lo strebene, il continuo tendere, e dall'altra parte quindi questa tensione verso il sogno, e sembra quasi che la realtà invece sia un ritornare indietro. Allora invece mi chiedevo, c'è un messaggio che si può leggere Nel libro, nel rapporto fra sogno e realtà? Cioè, è veramente, dicevamo all'inizio, lei diceva all'inizio, il sogno come fuga, come necessità, perché appunto c'è mancanza di ideali, non c'è utopia, insomma, ma è veramente sempre così la realtà? O possiamo scavare e trovare qualcosa anche nella realtà? Guardi, noi quando stiamo sognando stiamo nella realtà vera, e quando siamo nella realtà siamo nel non vero, e quindi in quella bassa atmosfera che potremmo chiamare sogno. Se sogno è una cosa non vera, è la realtà talvolta che è sogno, ed il sogno invece è talmente alto che è la vera realtà a cui non siamo sempre all'altezza. Mi spiego, quando ci innamoriamo, quando amiamo una creatura, nella fase dell'innamoramento, che è la fase divina dei nostri sentimenti, o quando ci innamoriamo di un ideale, è la stessa cosa. La tensione dell'anima, lo streben, verso l'altra creatura, verso la creatura amata, l'altra me, di medium mei, la metà di noi, quella che nel simposio di Platone è la nostra metà mancante, oppure la tensione a un ideale utopistico, religioso, filosofico, rivoluzionario, che ci fa sacrificare la vita per realizzare quel sogno, lì siamo nel sogno grande, siamo divini. Ecco, io ho pensato che quel verso meraviglioso di Vittorio Sereni, che ha sentito dalla bocca di Saba, d'amore non esistono peccati, potesse essere il nucleo sapienziale, il messaggio da dare. Bisogna volare alto, sognare ed innamorarsi. La passione d'amore rende la vita sopportabile. E al di là della morale, perché l'importante è amare, non importa se una donna ama un uomo una donna, oppure un uomo ama un uomo, una donna ama una donna. L'importante è che sia amore con la grande. Quindi io penso che effettivamente, a parte che siamo veramente in ascolto, estasiati, questa poi è la nostra prima puntata dopo il rientro. Io soprattutto devo dire, di fronte a questa risposta, insomma, veramente devo dire, è un'energia incredibile. Mi sta dando un'energia incredibile, veramente, proprio per questo tendere. Allora così ne approfitto per dire che sono andato a vedere il Trittico di Puccini a Vienna, di un giovane regista emergente, all'Opera, e ecco, ho sentito la stessa forza che mi ha dato lei in questi 2 minuti in cui ha parlato. Cioè, è un'energia incredibile. Prego? Che le ha dato Roberto Pazzi. Sì, che mi ha dato Roberto Pazzi. Veramente. Mi fa molto piacere, caro amico. È veramente una cosa bellissima, perché lei sta toccando delle corde che vibrano non solo dentro di me, credo che vibrano in tutti quelli che ci stanno ascoltando. Abbiamo bisogno di guardare in alto. Sì, assolutamente sì. Guardare in alto, perché è da lì che possiamo trarre la vera energia. E sono assolutamente, certo, d'accordo con quello che ha detto. Assolutamente. Grazie. D'accordo. Quindi io volevo semplicemente concludere con un messaggio ai nostri amici ascoltatori, per quanti non sapessero o avessero dimenticato oppure semplicemente rimosso di queste magnifiche storie, il romanzo di Roberto Pazzi vi offrirà l'occasione veramente di ripetere, meglio che in un libro di letteratura, di queste storie straordinarie, che parte dalle Parche, non le avevamo ancora citate, ma è necessario citare anche i cavalli divini di Ulisse, di Patroclo, di Achille, i cavalli che piangono per la morte di Patroclo, esatto. Descritti nell'Iliade di Omero. Sì, ci sono anche i cavalli di Pamero, sì, giusto, comunque che parte con questa tradizione greco-romana che poi prosegue, e quindi possiamo dire che D'amore non esistono peccati è veramente un elogio all'amore. E noi ringraziamo Roberto Pazzi per questa veramente piacevolissima intervista, e soprattutto la casa editrice. Penso soltanto di nominare anche l'editore, perché ha merito di averci creduto e di averlo pubblicato, l'editore Barbera. Assolutamente, quindi i nostri omaggi anche alla casa editrice Barbera, con la quale abbiamo un rapporto ormai consolidato da vario tempo e che ci ha permesso di poter dialogare questa sera. Ricordo quindi ai nostri amici ascoltatori di Roberto Pazzi, D'amore non esistono peccati, edito da Barbera, e potete acquistarlo anche online, quindi insomma basta un click effettivamente. Roberto, noi la ringraziamo per la sua partecipazione qui questa sera a Brussellando. Grazie a voi. E speriamo di risentirla quanto prima, tanto questo è stato il suo 18° romanzo. Quindi in Belgio ci sono stato, è una terra ricca di suggestioni, di assapori e di aromi diversi, un po' francofona, un po' tedesca, un po' tante cose, c'è il fantasma di Carlo V che aleggia, c'è il fantasma di Waterloo, ho cenato una sera a Waterloo, nella notte ho sognato il luogo dove si destinò, dove il 18 giugno del 1815 fu deciso la sorte del mondo, e sono approdato da Bruges, preso a Ostenda mi sembra, il battello per l'Inghilterra, il ricordo delle bianche sponde di Dover arrivando dal Belgio, il Belgio è nel mio immaginario, e poi la Yorsenar me l'ha fatto riamare al quadrato. E ora quindi ovviamente la ciliegina sulla torta, la nostra Brussellando, che è questa bellissima telefonata che mi unisce a tanti italiani che in quel bellissimo regno vivono, e allora saluto tutti idealmente come miei fratelli. Io le strappo, visto che è così favorevole al Belgio, le strappo allora la promessa che se capita in Belgio entrerà negli studi di Brussellando. Ma certo, vengo a fare una diretta, sono stato ospite dell'Istituto Italiano di Cultura a diversi anni fa nel Belgio, e poi a Lovanio ho un grande convegno sul rinnovamento della narrativa in Italia. Tornerò per la vostra radio. Con molto piacere. Bellissimo. Grazie a te. Buona serata, a presto. A presto, buonasera. Salve. Corner Book. Corner Book. Corner Book o Book Corner? Perché non è la stessa cosa. Va bene, però sì, in realtà sarebbe Book Corner, però Book Corner fa un po' bucolico, non è il caso. E quindi preferivo Corner Book. Suono buono. Mm-hmm. Posso dire una cosa? Sì, dica. Io preferisco Librangolo. Eh sì, però nella variazione, come tu mi insegni, c'è l'alto e il basso, quindi se tu qui siamo al basso. E qui siamo al basso. Potevi anche cantare Angol Libro. Angol Libro. dopo il basso c'è la batteria, la chitarra, eccetera. George, potevi dire Librangolo, hai voluto fare il tocco magico così per la rentrée. Pensalo in francese, sarebbe non bellissimo. Le coin du livre. No, dai. Librangolo, dai. Le coin du livre. Pourquoi pas? Livre qua. Livre qua, no. E in ungherese come sarebbe? Könycsarok. Könycsarok è anche molto più carino. Könycsarok suona. Könycsarok. Abbiamo imparato tutti, visto? La prossima volta che qualcuno mi taglia la strada dico Könycsarok. Mi lascio un libro in testa. Ma prima che ci perdiamo negli angoli librai, corner book, stasera vi ho portato un Big Bang. Ah bene. Ah bene. Sì, sono preparata. Beh, più o meno preparata, cioè io ho paura di George, perché George se ne intende delle cose anche di cui io sto parlando. Anche io ho paura di George. Comunque, ho letto uno dei libri di Bill Bryson, che è La breve storia di quasi tutto, che è un libro veramente fantastico. Cioè, non so se conoscete Bill Bryson, ne abbiamo già parlato almeno una volta. È uno che scrive in modo molto divertente. Parlando di profilattici blu. Scusa? Parlando di profilattici blu. No, parlando dell'Australia. E in riferimento alla medusa? E il riferimento della medusa. Perché Bill Bryson, parlando dell'Australia, dice: praticamente tutto ti può uccidere, mentre nuoti, a un certo momento trovi davanti una cosa trasparente, un po' sul blu, sembra un profilattico blu perso, e invece è una medusa mortale, piccolina, meglio starci distanti. Oh, ma là ci sono un sacco di aneddoti, veramente, specialmente se volete andare in Australia, vi raccomando proprio molto caloreggiamente il libro Down Under. Comunque, La breve storia di quasi tutto, invece, è veramente un libro serio, cioè le tematiche sono serie. Quello che lui descrive è la storia dell'universo, cioè come è nato l'universo, quali regole stanno regolando sia l'universo che la Terra, come è nata la vita, che cos'è esattamente questa vita, tutto ciò dal punto di vista scientifico. Però una scienza descritta in modo leggero, tutto, cioè fondamentalmente le informazioni sono precise, però sono presentate in un modo che anch'io l'ho capito, infatti già dopo il secondo giorno che lo stavo leggendo mi stavo dicendo che avevo imparato di più in quei due giorni che durante i 4 anni di scuola, quindi è grave. E poi racconta questa storia sempre prendendo anche le figure chiavi del soggetto di cui si sta trattando, quindi degli scienziati che sono arrivati a certe conclusioni, ci hanno aiutati a capire proprio questo universo o la nascita della vita, ovviamente raccontando anche degli aneddoti. Per esempio, uno riesce ad immaginarsi molto bene Einstein mentre sta seduto nell'ufficio dei patents, come si chiamano, scusa, brevetti. Dei brevetti della Svizzera. Un lavoro relativamente leggero che gli consentiva di pensare semplicemente seduto su una sedia senza particolare ausilio. Sta là e si inventa la teoria della relatività, cioè, così, fosse la cosa più naturale, come se fosse la cosa più naturale. Infatti quello che è molto bello è che fino alla fine del 1800 la maggior parte dei scienziati che sono arrivati a delle conclusioni molto importanti anche per la scienza di dopo, erano semplicemente degli amatori, per esempio dei nobili o anche delle persone semplici, anche lavoratori, chiunque, che osservando la natura ha intuito che cosa sta governando certi fenomeni. E questo io l'ho trovato sempre fantastico, cioè nel senso che la scienza fosse stata molto spesso spinta da amatori piuttosto che da professionisti. Cioè nel 1800 non dovevi essere un dottore per pubblicare un articolo scientifico, e non dovevi nemmeno essere parte della nobiltà per poter eventualmente pubblicare un bel trattato scientifico. Quindi bastava avere l'intuizione e avere ovviamente la cultura sufficiente per descrivere queste intuizioni. Però dal momento di Einstein e dal momento di anche della scoperta del mondo quantistico, cioè quello subatomico, questo è finito. Cioè, da quel momento in poi, quando già si sono scoperte le regole che sono completamente non intuitive, non basta più essere un amatore, bisogna proprio imparare, e il mondo della scienza diventa sempre più inaccessibile, sempre più difficile da capire. Comunque, il libro di Bill Bryson è interessante anche perché ti dà una base anche per interpretare un sacco delle cose che si leggono oggi. Cioè, per esempio, avevo letto soltanto in questi giorni che hanno scoperto che che in alcune persone, cioè non in tutti, ci sono dei geni Neanderthal. Allora, mentre prima pensavano che questo fosse completamente impossibile perché, perché nonostante il fatto che gli cioè il Homo sapiens e i neandertalesi sono coesistiti, hanno già stabilito che il DNA dei neandertalesi era completamente diverso, quindi in teoria non necessariamente era possibile questa donazione fra due individui così diversi. E infatti quello che si dice è che in questa notizia che avevo letto, che infatti si ipotizza che alcune malattie autoimmuni siano dovute proprio al fatto che si hanno questi geni alieni dentro di noi, che non fanno, cioè come se ci fosse una reazione del nostro corpo contro i geni che sono alieni. E se uno aveva letto Bill Bryson già riesce a dare un senso a tutto questo, perché ha già nella mente la storia di come hanno scoperto per adesso abbastanza poche scale dello sviluppo della vita umana sulla Terra, e che danno la possibilità di apprezzare anche le notizie scientifiche di adesso. Ne potrei parlare fino alla notte dei tempi, perché un sacco di realizzazioni mi sono arrivate mentre leggevo, anche perché non ho mai visto raccolto così, in un modo così sintetico, questo tipo di materiale. Quindi a uno vengono in mente per esempio delle cose che fondamentalmente la storia dell'umanità e la storia della vita sulla Terra non è altro che una storia di estinzioni, fondamentalmente, che succedevano uno dietro l'altro in conseguenza di un sacco di tipi di catastrofi, a partire da eruzioni vulcaniche fino ai meteoriti, o dalle epidemie fino alle aree glaciali, e che fondamentalmente è quello che dobbiamo anche aspettarci, ma senza necessariamente essere depressi, senza necessariamente essere depressi per questo motivo. Cioè fondamentalmente tutte queste epoche di animali che oramai non conosciamo, che oramai non esistono, duravano milioni di anni prima che succedesse qualcosa. Ovviamente noi stiamo un po' precipitando le cose, però dai, fondamentalmente in teoria abbiamo ancora un sacco di strada da fare. Beh, almeno fino al 20 dicembre. Almeno fino al 20 dicembre. E poi chissà. Ma io posso avere qualche... Io ho un biglietto aereo per il 21 mattina. Tanto per sfidare ogni qualsiasi... Hai voglia di perdere soldi, sostanzialmente. Probabilmente, tanto mi devo rimborsare. A quel punto perdere soldi è già uguale, guarda. Devo rimborsare, rimborseranno nell'aldilà. No, io avevo una domanda. Domanda? Ci puoi dire qualcosa sulla velocità della luce? Oddio, che cosa esattamente vuoi sapere? È veramente il limite estremo. La formula? La formula della velocità della luce, no? Un calcolo incredibile. È la formula di Einstein, è un altro paio di maniche, ma è C. Quindi il calcolo di come si calcola la velocità della luce, questo è un altro paio di maniche. Però in matematica è C, fisica. Così, è C. Magari li parliamo la prossima volta. Beh, comunque così. Bill Bryson non è che sta speculando sulle possibilità che sono oltre di quello che è certo e sicuro e scientificamente rappresenta la conoscenza migliore del momento. Se chiede a me un'opinione personale, che semplicemente adesso non conosciamo altra velocità che la velocità della luce, quindi pensiamo che fosse impossibile, però non è detto. Cioè, secondo me la conoscenza assolutamente non ha dei limiti, perché già abbiamo scoperto delle cose che sembravano non possibili. E infatti anche questa della velocità della luce, adesso che lo menzioni, è una cosa che sembra essere diversa nella fisica quantistica, perché, cioè, ve lo spiego anche per come l'avevano scoperto. Cioè, ci sono tutti questi tubi lunghi decine di chilometri in cui fanno dei belli esperimenti con le particelle, e hanno scoperto che un elettrone, cioè ci sono degli elettroni che vanno fondamentalmente in coppia, cioè stanno sempre girando insieme, e quindi se tu li separi, se cominci a se fai girare un elettrone in una direzione, simultaneamente il suo elettrone sorella, diciamolo così, o fratello, comincia a girare nell'altra direzione con la stessa velocità. Ovviamente se i due sono vicini non si porgono delle domande, non salgono delle domande, e invece li hanno trasportati proprio, li hanno fatti sparare a chilometri, e quindi a varie decine di chilometri, e infatti, ripetendo l'esperimento, quando uno degli elettroni è stato fatto girare, l'altro simultaneamente ha cominciato a girare nell'altra direzione alla stessa velocità. Quindi questo era proprio una dimostrazione del fatto che, se non altro, almeno l'informazione fra due elettroni è capace di viaggiare ad una velocità maggiore rispetto alla velocità della luce, ma nessuno se lo può per adesso spiegare come, perché e tutto il resto. Quindi abbiamo nuovi orizzonti da scoprire. Oh là là, continuamente. Però ho sentito che siamo agli sgoccioli. Sì, siamo all'infine, fin trasmissione. Siamo alla fine di questa nostra prima trasmissione di Brussellando. Io veramente voglio ringraziare tutti coloro i quali ci hanno ascoltato. Ringrazio per la parte tecnica Dani M. Grazie a voi. La nostra Fiordaliso, che riesce sempre a suggerirci chicche di lettura straordinarie, e che potrete ritrovare anche nel nostro blog, che ha cambiato un po' la struttura rispetto a qualche tempo fa, e che ora è radioalma.eu/brussellando, così semplice che anche io l'ho imparato. Incredibile. Visto, con la vecchiaia la memoria migliora forse. Saluto il nostro George Laurent. Cari amici, ben ritrovati, e io approfitto per salutare invece la grande Meredy. Ci ritroviamo quindi martedì prossimo per un'altra puntata spumeggiante. Ricordatevi, avremo i fratelli Taviani, avremo Carolina Morace e avremo anche un'altra ospite tipicamente belga invece. Buona settimana a tutti!